kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Allora eccoci di nuovo con la piazza. Sì, buongiorno a tutti e a tutte, se mi state sentendo. E penso di sì. Sì, mi sembra di sì. Allora vi chiamo qui, come dicevamo un attimo fa, prima dei consueti problemi tecnici, da Porta Pia. Si sta cominciando ad animare la piazza, si cominciano a concentrare un po' di partecipanti, le prime delegazioni nazionali, i primi gruppi da Milano. Sono arrivati tre pullman, avete sentito, abbiamo sentito i pullman in arrivo dalla Toscana, ma anche da Brescia. Non ci sono ancora molte persone qui a Porta Pia, diciamo che come sapete c'è un appuntamento a Piazzale della Minerva, a Piazzale Aldo Moro, già a Piazzale della Minerva, all'università, che dovrebbe arrivare qui in corteo, ma comunque insomma la piazza si sta riempiendo soprattutto anche di realtà che hanno raggiunto la città presto, appunto Milano, con le sue occupazioni sicuramente più piccole in termini di numeri, anche perché vengono da lontano, ma con delle caratteristiche molto simili alle occupazioni che conosciamo qui a Roma. Una composizione come la chiamano loro, meticcia, con parecchi migranti, e piano piano cominciano anche ad affacciarsi compagni sparsi. L'appuntamento, ricordiamo, è alle 2, per cui in realtà è abbastanza presto, però vi devo dire la verità, a meno di grandissime sorprese non sembra un concentramento che preluda una manifestazione enorme, ma questo sono contento se sarò smentito dai fatti. Vabbè, insomma, però dai, mezzogiorno ci sono. No, certo, è molto presto. No, vabbè, ma insomma, sai che noi però teniamo sempre fede alla norma di raccontare poi quello che vediamo, poi sostanzialmente, però insomma. Ma lo speriamo... stai facendo apposta in modo che chi sente dice allora vado? Sì, secondo me sì, secondo me è un appello, come sempre, a una Roma generosa. Qualche volta si fa attendere, però è una città generosa, capace di slanci che a volte ci sorprendono, ecco, nonostante il cielo leggermente incupito e le previsioni non proprio felici, ma appunto la città ci abitua anche a del sole improvviso. Stai pure dicendo che forse piove, insomma, dai. No, assolutamente no, dicevo il contrario, è che chi apre la finestra e magari dice no, è una giornataccia, si deve sempre ricordare che appunto Roma spesso e volentieri, no, ci stupisce con delle giornate bellissime, anche quando da un momento all'altro uno si aspettava l'acqua. Poi, va, insomma, bene, stiamo pestando l'acqua nel mortaio, sì, con questa corrispondenza. Sì, sostanzialmente. Un pochetto, ma fa parte del gioco. Senti, è anche vero che insomma, comunque, anche nelle manifestazioni passate, insomma, molta gente poi è venuta, e che questa, come sottolineava il Tempo, che ho letto doviziosamente, il Tempo Quotidiano, questa è l'unica manifestazione contro il governo, da una certa prospettiva, ci mancherebbe altro, quindi insomma chi si riconosce? No, queste... quasi da tutte le prospettive, perché vabbè, manifestazioni contro il governo, a meno di non parlare delle pantomime fatte della Lega o di qualche sigla sindacale confederale su singoli problemi, sostanzialmente non ci sono state grandi manifestazioni. No, direi di no. C'è un clima d'attesa, però se ne vogliamo parlare un po' più seriamente, se abbiamo qualche secondo, se non hai delle corrispondenze immediate da fare, credo che un po' di riflessioni che poi faremo magari durante la manifestazione vadano fatte, perché come accennato anche in altre discussioni fatte in radio, che insomma oltre a raccontare le cose prova anche a rifletterci sopra, si sente un po' un'atmosfera di una manifestazione che, a differenza del 19, che era una riapertura, un nuovo respiro dal 15 ottobre, nel senso che il 15 ottobre aveva segnato una tappa importante ma anche grandi divisioni, il 19 ottobre aveva fatto intuire una possibilità di un movimento anche per qualche verso un po' più spontaneo, nel senso un po' più capace di essere movimento. questo è sempre il mio punto di vista, questa manifestazione del 12 aprile con le migliori intenzioni però appare almeno parzialmente come una manifestazione un po' più identitaria. Io parlando qua e là anche con i compagni ho potuto apprezzare una difficoltà non tanto sul piano della mobilitazione delle realtà esistenti quanto a un'ambizione di un respiro più largo, magari parlo soprattutto di Roma, che non è il respiro come dire, aumentando le parole e mettendo accanto a casa e reddito per tutti il Jobs Act piuttosto che il governo della Troica, la BCE e via dicendo. Cioè non è un problema di aumentare le parole, le loro aggettivi altisonanti, ma sul piano proprio dell'ambizione di allargare a fasce sociali investite allo stesso modo dalla crisi e che potrebbero essere potenzialmente interessate a mettersi in gioco. Ecco, questo lavoro qua io non sono proprio convintissimo che sia stato fatto con la necessaria convinzione, però è una tappa, magari è una tappa per consolidare delle realtà oramai diffuse, in special modo per quanto riguarda la lotta per la casa, sperando che questo percorso poi porti anche a confrontarsi su questi temi. Noi credo, però smentiscimi o interrompi, abbiamo uno straordinario bisogno di uscire da una autorappresentazione che ci isola un po', no? In termini di linguaggio, di tematiche, di capacità di costruire empatia anche a fasce larghissime di persone che poi prese una per uno alle fermate degli autobus, ai mercati, poi si ritrovano a raccontarti vite magari non al limite ma sicuramente in grandissima difficoltà. Ecco, entrare in sintonia con tutto questo mi sembra un po' meno il punto esatto della giornata di oggi. Vabbè, questo ovviamente prevede un lavoro capillare e come dicevano i testi sacri, quando il proletariato si fa classe diventa poi credibile, sulle sue parole d'ordine si mobilitano ampi strati di società. Ecco, questo sì, beh, ma insomma anche più banalmente basterebbe dire che questa città sta vivendo sui trasporti, sul welfare, sulla questione dei servizi essenziali erogati dalla municipalità, problemi grandissimi, i lavoratori delle varie municipalizzate, per non parlare dello stato disastroso del suo trasporto in tutti i sensi, anche quello diciamo su gomma, la sua condizione delle sue strade, ma in generale insomma a rischio di default, ma oggettivo, non sulle pagine dei giornali che ne parlano gli assessori, parliamo proprio di servizi tagliati. Beh, questa dimensione non è proprio al centro della capacità di allargare in termini diciamo dinamici le alleanze sociali, e questo secondo me spiega anche una certa disattenzione della stampa. Mo, naturalmente la stampa è disattenta perché decide di mettere il silenziatore o perché l'accende a seconda se vuole gridare come il tempo all'orda dei Black Bloc. Come hai potuto leggere questa mattina, né il Corriere della Sera né la Repubblica danno un risalto particolarmente significativo alla manifestazione. È un altro tipo di scelta, ma sicuramente insomma, come già fu il 19 ottobre, dove la partecipazione, ma anche quello che noi abbiamo potuto constatare individualmente, no, con persone che magari non vedevamo da anni, che hanno deciso comunque di scendere in piazza, la partecipazione fu superiore alle aspettative. Ci fu sicuramente questo un coraggio. Che però il problema è ovviamente che diventi un'organizzazione costante e poi sappia lanciare delle parole d'ordine e delle proposte che siano praticabili, insomma, questo mi sembra, sì, sinteticamente. Anche banalmente noi abbiamo fatto una trasmissione la settimana scorsa, non è per parlarci addosso, ma l'hanno fatta alcuni compagni sulle manifestazioni spagnole della settimana precedente, sulle grandi manifestazioni, e si coglieva nelle corrispondenze ma anche nei ragionamenti, nei report, al di là della valutazione che uno fa sui movimenti spagnoli, sulla loro maturità, una diversa capacità di generalizzare una partecipazione. Ecco, i movimenti, in fondo noi chiamiamo tutto movimento, no? Poi se mi posso permettere, Antonella, insomma, tanto mi sembra che la nostra radio ci permette di questi personalismi, chiamiamo tutti i movimenti, ma poi in realtà il movimento magari assume, per chi ha vissuto dei movimenti anche piccoli, non solo quelli storici, il 68, il 77, ma anche i movimenti studenteschi hanno dentro di loro al di là della specificità, una capacità di generarsi, magari per un periodo breve, no? Di un'euforia collettiva, di provare a misurarsi insieme su alcuni problemi, a volte più generali, a volte più particolari. Quelli che noi chiamiamo movimenti sono intervento politico dentro una dimensione strutturata. Ecco, io di movimenti in giro non ne vedo in questo senso. Poi c'è il movimento per il diritto all'abitare, c'è il movimento di questo, il movimento di quello, movimento contro le nocività, contro la NOTAV e via dicendo. Non c'è quella dimensione. Quella dimensione crea anche un immaginario, anche parziale, che però si vede, discute, fa le assemblee in piazza, in cui vedi le persone coinvolte anche al di là del loro quotidiano. Qui siamo in un quotidiano di battaglia, di lotta, di percorso, di tentativo, di trasformazione, che mette in gioco anche le cariche, gli sgomberi, gli arresti, lotte concretissime, ma non una dimensione così straordinariamente eccedente, userebbe qualcuno questo termine che secondo me non significa mica tanto. L'ha usato. Pronto? Te? Sì, ci sono. No, appunto, no, siccome è come sollevazione, assedio. Vabbè, senti, facciamo una cosa, Luca, insomma, sicuramente adesso io cercherò pure. Potremmo continuare a parlare per ore, sì, ma è meglio... quindi noi interrompiamo. No, direi che tranquillamente noi adesso rimandiamo a quello che è possibile fare di corrispondenze su chi si sta dirigendo a Roma, qualcuna l'abbiamo già sentita, Cisegliano fra l'altro, ma ovviamente non ci aspettavamo nulla di diverso, dalla zona nord già dei posti di blocco piuttosto consistenti, quindi insomma lasciamo il telefono libero nel caso che qualcuno ci voglia insomma raccontare qualche cosa. E poi sicuramente comunque il 491750 è libero. Ho capito, sì. Me ne ero resa conto, sì. Perfetto, sì. E comunque è libero, e quindi si tratta di sentire ancora un po' forse il sud, e certo, qualche realtà dal Piemonte piuttosto che altre realtà.